Letture di Radio 24. Nella Cina comunista la libertà di espressione è ancora un'utopia. Sono oltre 400 le parole censurate in internet e quando le si digita salta la connessione. Il governo di Pechino vuole stroncare le ultime forme di anonimato che ancora resistono su internet in Cina. Una norma pubblicata all'inizio di giugno in attesa di ratifica costringerà tutti i navigatori a registrarsi con un documento di identità. Nel mirino ci sono Sina Weibo, Tencent Weibo e gli altri siti di microblogging simili a Twitter. Per quanto sottoposte a continui controlli, queste piattaforme ospitano spesso opinioni e post su argomenti sgraditi al governo, dai casi di corruzione locale agli appelli per il rispetto dei diritti umani. Un esercito